Siamo in collegamento telefonico con Paolo Branca, professore e arabista alla Cattolica di Milano. Professore, l'Arabia Saudita ha nutrito l'islamismo radicale soprattutto fuori dai suoi confini e adesso si ritrova con un problema in casa. Quanto riesce a tenerlo sotto controllo? Innanzitutto comincerei a dire che non ha nutrito questo islamismo radicale soltanto fuori dai propri confini, ma anzi in qualche modo questa alleanza con una versione militante puritana dell'Islam sta alle radici stesse, diciamo così, nell'atto di nascita dell'Arabia Saudita, quando appunto questa dinastia locale riesce a imporsi e a conquistare il potere proprio grazie all'alleanza col wahhabismo, quindi con un movimento islamico di tipo puritano, intransigente. E, però certo è innegabile che poi sia stato un elemento fondamentale anche della sua legittimazione internazionale come grande potenza islamica, come luogo che ospita le città sante dell'Islam, eccetera, quello di puntare su questa carta di islamismo militante. E direi che adesso però stanno venendo al pettine i nodi, ecco, con l'11 di settembre, ma anche prima, insomma, già con l'occupazione della moschea della Mecca nel 79, diciamo così, che qualcuno sta cercando di scalzare la dinastia giocando proprio la stessa carta su cui essa ha puntato la propria legittimità, cioè quella di essere autenticamente islamica. Professore, c'è un problema di forza dei gruppi radicali o soprattutto di fragilità della monarchia saudita? Ma direi le due cose, di forza dei gruppi radicali intesi forse però più come una forza di consenso che è aumentata nel mondo arabo negli ultimi anni con la crisi progressiva e inesorabile delle ideologie laiche che avevano predominato precedentemente, come quella nazionalista o quella rivoluzionaria, che erano di importazione occidentale. Quindi dal punto di vista ideologico si sono rafforzati questi gruppi, raccolgono un maggior numero di adepti, sono stati anche favoriti con una politica un po' da apprendisti stregoni, quando servivano per controbilanciare opposizioni laiche oppure quando sono serviti per combattere i sovietici in Afghanistan. Dall'altra c'è anche però un elemento di fragilità interna di una dinastia che ha al suo interno moltissimi principi, si parla di migliaia addirittura di principi con i loro gruppi, le loro clientele. Ecco, questo tribalismo interno che certamente è un elemento di debolezza e di fragilità che espone più facilmente a delle crisi. Il progetto della rete che si richiama Osama Bin Laden è la cacciata degli stranieri miscredenti dai luoghi sacri dell'Islam, ma anche una punizione per le cosiddette leadership empie. Quale dei due obiettivi secondo lei è più importante per le frange estreme dell'Islam radicale o fanno piuttosto parte della stessa strategia? Direi che fanno parte della stessa strategia. Certamente il gridare allo scandalo per la presenza degli stranieri sul sacro suolo d'Arabia, come è successo appunto quando le truppe americane si sono stanziate nel regno per combattere, per proteggerlo insomma dall'aggressione possibile di Saddam Hussein, che aveva già invaso il Kuwait, puntare su questo ha un certo tipo di impatto sulla opinione pubblica, però il vero obiettivo ovviamente della rete islamica radicale non è certo quella di combattere gli Stati Uniti, tantomeno sul loro territorio, ma quello di destabilizzare le classi dirigenti al potere nei vari paesi islamici. Si usa degli slogan islamici come di un'arma appunto per sbloccare un sistema che altrimenti sembrerebbe non offrire nessuna possibilità di alternanza, non ci sono libere elezioni, non ci sono partiti di opposizione, la religione diventa anche il grande strumento attraverso il quale chiunque non è soddisfatto di come le cose stanno dà voce alla propria protesta e dà corpo alla propria opposizione.